Ecco, allora una felice serata a tutti voi, grazie di essere qui e soprattutto grazie alle nostre due ospiti. Questa sera abbiamo con noi Melanie Francesca, l'autrice del libro Il sussurro di un Dio, e poi abbiamo con noi Paola Bessega che ci aiuterà nell'approfondire la conoscenza della nostra autrice, della nostra ospite, che ringrazio appunto anche di essersi prestata a questa nuova diciamo scoperta, a questo nuovo incontro con Melanie Francesca, che però è un personaggio noto perché ha partecipato a numerose trasmissioni televisive anche recentemente, poi magari ci racconterà anche questa esperienza, ed è anche un'autrice che, di molti libri, oltre che un artista di fama internazionale, e autrice di molti libri che sono anche presenti nella nostra collezione in biblioteca, alcuni sono qui, gli altri sono in prestito, non siamo riusciti a metterli tutti a disposizione questa sera per l'occasione. Vi cito alcuni titoli: Il libro del segreto, Il maestro e L'angelo, per dire i più recenti, ma se torniamo indietro c'è anche La donna perfetta, L'occidentale, e poi ci sono altri libri anche con un altro pseudonimo. Ci racconti anche questo dopo, però. Una prima, una seconda vita, anzi una terza vita, ce ne ha tante di vite, Francesca, Melanie Francesca, che così ci tengo a ricordare, è comunque di origini bolzanine, gira per il mondo, si muove tra la Svizzera, Dubai, il resto dell'Italia, è stata molto impegnata nella presentazione dei suoi libri in questi anni. E posso dire che ha avuto una svolta mistica, intimistica in questi anni, perché c'è stata questa introspezione, forse anche la maternità ti ha aiutato a guardare con un occhio diverso e avere delle prospettive nuove e anche voler comunicare, dare dei messaggi nuovi anche alle nuove generazioni, diciamo. Così sono, no? Sempre stata mistica, secondo me. Sì, è vero, posso testimoniare, sì, è stata mistica. però adesso lo trasferisci nei libri, in un contenuto nuovo, una modalità diversa, con dei messaggi veramente modulati in maniera anche che i ragazzi possano capire, comprendere, e vuoi trasferire questa tua sensibilità in una maniera nuova. Vi lascio in compagnia delle nostre ospiti, senza però prima fare un piccolo spot delle nostre prossime iniziative. Domani alle ore 17 qui presso la biblioteca avremo il solito gruppo di lettura che si occuperà del romanzo di Georgia Kaufman, La sarta di Parigi. Siete tutti invitati e invitate, si può accedere senza prenotazione. Se siete curiosi e curiose di sapere come funziona, domani alle 17 lo potrete scoprire. Poi abbiamo la prossima settimana due appuntamenti: martedì alle 17.30, martedì 11 febbraio alle 17.30 saremo qui con la consulta Ladina, il consueto appuntamento ogni anno che abbiamo all'inizio dell'anno con loro, 100 anni e uno di giocattoli della Val Gardena, conversazioni con Michaela Sottriffer. Ci sarà con noi Edith Ploner, Monica Ferrari che è l'autrice, e ancora Andrea Comploi e Mattias Stuflesser che ci accompagneranno nella riscoperta dei giocattoli artigianali della Val Gardena. E infine mercoledì 12 febbraio alle ore 17 avremo la presentazione di un libro che è stato scritto in tedesco, ma la conferenza sarà in lingua italiana e riguarda il Wandmalereien des Mittelalters und der Renaissance in Tramin. Quindi si parlerà di questi affreschi, di questi murali del Medioevo che si trovano a Termeno. Saremo accompagnati da Helmut Stampfer, che è l'editore del libro, e anche in compagnia della professoressa Lucia Longo Endres ed Elisabetta Balduzzi, che sono rispettivamente docente di storia dell'arte a Trento all'università e una guida turistica qui di Bolzano, esperta del nostro territorio. Basta, lascio subito lo spazio alle nostre ospiti, che ringrazio ancora. Vi auguro una piacevolissima serata in compagnia di Melanie Francesca e di Paola Bessega, che conoscete, il nostro volto, ecco, del TG di VB33. E adesso andiamo avanti e scopriamo Il sussurro di un Dio. Grazie Valeria. Grazie Valeria per questa introduzione, questo saluto. Sono contenta, felice di essere qui per parlare e presentare insieme a Melanie Francesca questo Il sussurro di un Dio, manuale di sopravvivenza per generazioni aeree. Ma no, ma sai che una cosa, no? Dimmi. Cioè, che poi sentendo Valeria raccontare il mio profilo di persona che vive tra Bolzano, cioè era bolzanina, poi vive tra Abu Dhabi, Svizzera, sempre in movimento, cioè mi dico la centralità dell'essere, essere aerei, forse c'entra molto anche trovare se stessi con tutto il movimento che c'è stato nella mia vita. Alla fine non è cosa da poco. Non è cosa da poco, ma la tua centralità l'hai trovata. Iniziamo subito così. No, guarda, tu fai pure il preambolo invece. Allora, un preambolo è, leggendo le prime tre frasi, questo libro nasce dalla domanda che mi sono arrivate in questi anni dai lettori e che si risolvono soprattutto in una domanda. Come si fa a raggiungere una vita armonica e felice? No, è vero però. Come si fa a raggiungere? Perché alla fine io mi domando, no, quando si dice sei felice, e se me lo dicono a me, io dico io sono proprio felice. E poi in che cosa consiste la tua felicità? Nelle piccole cose quotidiane. Cioè io mi sveglio e sono proprio contenta di respirare, nelle piccole cose. Se vedo un fiore mi piace accarezzare i petali del fiore e sentire quanto sono vellutati. Cioè mia figlia che mi si racconta le sue cose, cioè le felicità piccole che abbiamo tutti. Allora io penso che sia o di tutti, coloro che hanno un animo un pochino poetico, di gustarsi la vita proprio così tanto. Valeria prima diceva che ho fatto una svolta mistica. In realtà io credo che ci voglia una grande sensualità per essere mistici. Cioè, la persona che avverte la vita con questo gusto profondo di vivere, con questa bellezza, è proprio un paradiso in terra. Cioè non occorre fare delle cose pazzesche, no, per essere felice, buttarsi da un ponte con il paracadute, avere tutte queste eccitazioni pazzesche che a me farebbero morire. A me bastano le piccole cose. Tu già da piccola godevi delle piccole cose. Sì, ti veramente. Sentivi già diversa. Ma io mi sentivo molto diversa altri. Anche perché si sente, no, nel libro questa cosa. Io difatti volevo fartelo raccontare. Dai. Perché proprio si legge in quasi tutte le pagine che si vanno a sfogliare a leggere, proprio il tuo essere semplice ma allo stesso tempo ricercata, semplice ma allo stesso tempo alla ricerca di quel qualcosa di diverso, di astratto, di portare, come dicevi tu, le generazioni aeree a trovare che cosa? No, perché tu l'hai letto e vedo tutto. Tantissime sottolineature, no? Perché ci sono diversi punti interessanti. Però è vero, io non so vedevo. Se riusciremo a trattarli tutti, però ci sono diversi punti molto particolari che ti portano però, a vedi, conoscere. Il fatto che questa non è un'autobiografia, sarebbe molto riduttivo. Io uso un attimo, sì, uso un attimo degli elementi della mia vita per poi passare oltre e raccontare una situazione che appartiene a tutti, perché altrimenti sarei una, cioè non sono un guru, non sono una psicologa, non sono, allora che cosa sono? Sono una che con l'esperienza della vita va e racconta una situazione, no? E cerca di aiutare gli altri all'interno di queste cose. Quindi la domanda che cos'è essenzialmente? Cosa volevi trasmettere, portare scrivendo questo libro? Perché si parla di un sussurro, come di un essere delicato, di riuscire a portare in maniera leggera anche un messaggio a chi? Ai giovani, agli adulti? Ma sì, guarda, noi ci siamo proprio adesso, siamo alle porte di una trasformazione totale della nostra percezione della vita. Si nota molto nei giovanissimi che sono così confusi, non sanno se essere maschio o femmina, si sentono fluidi. Perché si sentono così giovani? C'è stata una grande propaganda, no? Adesso sul fatto di puntare al massimo verso questa confusione. Ma c'è anche l'effettiva sensibilità dei giovani a perdere la propria centralità, e questo è dovuto al fatto che le generazioni che nascono adesso sono molto eteree, cioè loro sono molto sospesi, avvertono proprio gli altri e il mondo in una maniera un po' magica, anche se non se ne rendono conto. Ma guardiamo per esempio tutti questi serial coreani, giapponesi, mia figlia guarda tutti questi serial coreani che sono completamente pieni di streghe, di magia, di parlano di anima, molto più che in Occidente, no? Ecco, la generazione aerea è proprio questa generazione che vive in bilico tra l'aldilà e l'aldiquà. Quando vedi una persona, capisci quello che ci sta dietro questa persona al di là delle parole. Quindi le parole, non, secondo me, in un futuro tra, non so, 150 anni, comunicheremo così, senza le parole. Cioè, secondo me, veramente, magari tra 500 forse anni. Forse prima, perché con tutti questi telefonini, questi mezzi ma social... Ma sai che questi... i microchip che ci metteranno nel cervello, no? Che poi ci sarà questo grande passo... Per esempio, secondo me, Elon Musk è aereo, è completamente aereo, per esempio, no? Lui vive, sebbene tutti gli dicano, ecco, tecnologico, e poi, sai, un oligarca, ma al di là di questi aspetti che potrebbero sembrare terribili di questo personaggio, lui sogna di conquistare Marte. Non occorrebbe conquistare Marte per sistemare l'umanità, basterebbe sistemarla qua in terra. Però ci sono questi grandi ideali di grandezza che appartengono alle persone aeree. E poi ce ne insomma, che poi Elon Musk è un veterano, un vecchio rispetto alle generazioni aeree, però saranno sempre di più queste persone, persone che super sensibili, che vedono, capisci, no? Che, tu li indichi anche come matti positivi. Matti positivi, sì, perché vengono sempre fraintesi. Sì, esatto, fraintesi, perché si buttano comunque... E come comunque... ti sei sentita tu da piccola? Ma ero, a parte che dicevano i miei compagni di classe che sembravo appartenere al Settecento, ero in un'altra era totalmente, poi mi arrampicavo sugli alberi, leggevo le poesie lassù, mentre magari le mie amiche avevano il fidanzato, io ero completamente concentrata nella corsa, queste cose, e poi con una leggerezza che è incredibile, no? Ho lasciato la mia famiglia per buttarmi a conoscere il mondo, senza quasi guardarmi indietro, senza nostalgie particolari, se non dopo, magari, quando sono nati i figli. A 18 anni hai lasciato tutto. Sì, perché avvertivo anche la mia famiglia come molto... ero super sensibile, quindi le minime urla familiari, che sono normali in una famiglia, no? A me causavano dei traumi pazzeschi, quindi sono andata, io sono andata volando via, e quindi questa cosa comunque poi si è riflessa su di me, perché poi... Quella centralità che ti darebbe, quella solidità che ti dà comunque una famiglia, che piccoli passi, tu cominci tutto da capo sempre, scordandoti di quello che eri, cioè perché mi capitava proprio questo, quindi ricostruendo sempre qualcosa da capo, pazzesco. Tu hai detto che ti sei sentita anche un po' camaleontica, no? Nella tua vita, perché hai dovuto... magari anche indossare delle maschere? Sì, perché nelle persone aeree, no? Il concetto di... essere di ego, io non sono un'ego sensitiva, per esempio. Cosa vuol dire essere ego sensitivi? Vuol dire essere sensibili solo verso se stessi. Cioè, se uno mi dice un'offesa, io non mi riguardo. Se lo dice a mio figlio, invece, io divento matta. Se vedo un'ingiustizia nel mondo, io divento matta. Se vedo una persona che ama, io sono felice, no? Ecco, io non sono ego sensitiva, sono sensibile alla bellezza del mondo, questa sì. Quindi la sensibilità degli aerei è qualcosa che non riguarda la propria persona, è una frammentarietà perché manca l'ego. Cioè, veramente, nelle persone aeree non c'è l'ego. Nelle persone che oggi si ritengono fluide, per esempio, io non sono fluida, sono una mamma, mi sono sempre piaciuti gli uomini, cioè, capito? Non è quello, si va al di là dell'essere una persona proprio. Io ho avuto molta difficoltà di percepirmi fisicamente, tanto ero così. E allora ho scritto tantissimi libri per trovarmi fisicamente, ho dipinto sempre quadri in cui rappresentavo quasi me stessa per trovarmi là, perché non avevo la percezione. Io adesso, per esempio, non riesco neanche a mettermi un anello, un orecchino, sono una persona che non ha gioielli, proprio perché non riesco a mettermi addosso le cose, devo essere essenziale, sempre molto sobria. non mi percepisco, capito, è una, ma gli aerei sono così. Questa tua sensibilità... Ma magari alcuni si ritrovano a periodi, a tratti della propria vita così. Cioè, poi magari uno si butta nella poesia, oppure si butta nello scrivere o nella ricerca e trova le sue certezze in quello che fa, come una missione, come una grande cosa che magari non occorre fare delle grandi cose, tipo andare sulla Luna. Uno può essere felice di fare delle grandi cose nel piccolo, perché sono sempre grandi. Non importa quello che fai, ma come lo fai, no? Bisogna anche trovare la consapevolezza, no? No, ma per esempio una mamma che cresce i suoi figli con amore, fa da mangiare ogni giorno con un estremo amore, è uguale allo scienziato che scopre che prende un Nobel per la sua scoperta, in quanto a grandezza, perché è l'amore che è quantificabile, non quello che fai. È la dose di amore, cioè proprio quindi questa ci porta a una grande uguaglianza che ci rende noi tutti umani, tutti uguali, e perché dal punto di vista dell'aldilà è proprio questo che vale, cioè come fai le cose. Guardando e leggendo il tuo libro, che poi è suddiviso anche... Spero che non siano discorsi allucinanti. Ah, ok. Che è suddiviso anche in capitoli. Tu mi dicevi una cosa interessante. Sì, sono suddivisi in capitoli, però il libro è nato tutto di getto, no? Sì, è vero, è e vero. E come hai fatto a suddividerlo? Come hai fatto, no, poi? No, ma questo viene dopo. È tutto un lavoro. Raccontiamo anche come nasce un libro. No, perché è vero che uno si domanda come mai. Visto che ne hai scritti 19. Sì, che poi non permetto ai miei editor di cambiare neanche una frase. Al limite. Perché un libro, quando si scrive, poi c'è un editore che ti pubblica, il libro va prima a un editor che te lo legge e ti dice questa parte va tolta, eccetera, eccetera. Poi c'è l'altro editor che cominciamo a leggerlo frase per frase, dicendo io metterei quella parola, io metterei quell'altra parola. C'è un lavoro bestiale, poi ci va a 3 correttori di bozze, insomma è infinita la roba, no? Cioè... Però io non ho mai permesso ai miei editor di riscrivermi dei pezzi, di farmi delle cose, perché... ho mio stile, quindi non glielo... E quando scrivo sento una voce dentro e scrivo di getto come se proprio si scatenasse, non lo so, come quando uno va a farsi una bella corsa e uno corre e in quel momento è il corpo che corre. Tu pensi, non è che pensi adesso muovo la gamba e poi muovo l'altra e muovo il braccio così e colà, non è un affare di pensiero la corsa, no? Tu corri. Come quando respiri, non è che pensi adesso respiro, in questo momento espiro, espiro, perché altrimenti fai solo quella, è il tuo corpo che ha deciso di fare così, la stessa cosa nello scrivere, è il corpo che scrive, e scrive in una maniera che non passa per il cervello, questo è il fatto, come quando uno dipinge o si mette a ballare, avete presente quando ballate? Perché quando scrivi pensando di scrivere con la testa, scrivi mezza pagina al giorno e dopo ti fermi, e invece quando scrivi con il getto, come se facessi ginnastica, scrivi 24 pagine e non ti fermi più, provi a scrivere un sacco di roba. È bella questa roba, no? Molto interessante, anche perché tu vai a scrivere di getto pagine e pagine senza accorgertene in sostanza. Non te ne accorgi, tu continui a scrivere, poi butti via anche tanto, no? Però c'è questa voce interiore che ti parla. E quando avevo scritto l'angelo mi sembrava veramente che ci fosse un angelo lì vicino e lo sentivo proprio con dei brividi nel mio corpo. Questo per esempio, sai, poi io credo che ci siano veramente degli esseri intorno a noi che ci guardano, che ci stanno vicino, credo negli angeli, credo negli spiriti, sono molto animista. La Maria Rita Parsi, che dietro. È dietro qua, che lei invece è una psicologa, diceva io questo libro l'avrei chiamato Il sussurro di un io, è perché lei nega Dio. No, ma guarda, gli dicevo Maria Rita, guarda che è proprio il sussurro di un Dio. E invece scrive un artista capace di captare il senso che sta oltre e dentro le cose, a svegliare l'essere umano alla dimensione spirituale, alla scoperta della verità. un James Joyce al femminile, da sorseggiare per aprire le porte all'altezza di là del nostro inconscio. L'inconscio, perché per gli psicologi questo sarebbe l'inconscio, al di là però dell'inconscio, no? Quindi si fa un passo più in là, abbracciando proprio quello che si capta. Noi siamo, io penso che nessuno mai meriti di quello che noi facciamo, non so, io non mi sento molto meritevole, perché se c'è qualcuno che mi detta i libri, qualcosa che va oltre di me, ti viene anche una grande umiltà, perché nel momento che scrivi questi libri ti metti completamente a servizio, gli dici, senti, dammi tu la forza, dammi tu le parole, e qualcuno ti dà le parole, che sta nell'aldilà, no? Allora alla fine tu sei un tramite, cioè scrivi delle belle cose, ti senti, però racconti, finito un libro, vai te. Avanti, racconti di te, però proprio perché io non ho l'autorità di uno psicologo o un teologo, io non sono una teologa, io se non posso raccontare di quella mia esperienza divento fasulla, no? Divento come quelli che scrivono libri di come diventare felici e poi li leggi e ti annoi tantissimo, perché non hanno delle attinenze a delle cose vere. Tu tratti anche il bullismo, no? Hai vissuto nella tua infanzia, adolescenza, momenti di bullismo? Ma un carattere come me è sempre bullizzato, cioè non è che si scappa, non so, il fatto è che il carattere come i miei sono caratteri passivi, il tipico che deve, cioè è un po' vittima delle cose fino a che si rende conto, come dice nel Paese delle Meraviglie, che alla fine sono solo carte. E basta buttarle via per finire il gioco, no? Cioè, è lì il concetto. Però qua parlavo del bullismo in una maniera un po' generale, nel fatto che la maniera, dico, per vincere il bullismo anche dei figli che vengono bullizzati a scuola, per esempio quando i miei figli venivano bullizzati, perché tutti i bambini alla fine si prendono in giro, ma loro erano magari, non erano dalla parte di chi bullizzava, ma che magari venendo, hanno fatto un periodo anche in Svizzera, venendo da Abu Dhabi, a Abu Dhabi non c'erano le parolacce e vengono qua e tutti dicono parolacce. In Europa molto, sono molto aggressivi, crescono già con una mentalità completamente diversa, che laggiù subivano delle cose, no? E allora io ho cercato di instigare in loro il fatto che se uno ti bullizza non essere mai colpito, abbi pietà di chi ti bullizza perché è lui che sta male, no? E quindi una visione, non dico caritatevole, però dire sono problemi dell'altro se ti offende. Ma la stessa cosa quando per esempio qualcuno ci incrocia e impreca contro di noi, o fare, alla fine è compassione di chi ti offende, perché non è una questione di superiorità, è una questione che sono chi sta male, cioè chi ti fa star male, chi ti vorrebbe far star male, perché sta male in primo luogo, no? E quindi quando questo te lo insegni, l'ho insegnato ai miei ragazzi, e sono ragazzi contenti, che non hanno mai problemi, se uno li offende non stanno lì a rispondere, dice vabbè, mi offende, avrà problemi, andiamo per la nostra strada. Ecco, questo, in questo senso il bullismo l'ho affrontato. Hai affrontato appunto il bullismo in questo modo, hai affrontato anche e dato dei consigli, no, nel tuo libro di come pianificare. Ah, quella la vita, quella è carina. Quella è carina, nel senso bisogna cercare di mettere dei punti fermi per iscritto sui sogni che si vogliono realizzare, perché secondo te, riuscendo a metterli nero su bianco, si riescono a focalizzare e potrebbero realizzarsi con più facilità. Ma sai che è una cosa che ho sempre fatto, di scrivere tutti i miei sogni su dei calendari, prendevo un foglio, facevo delle linee, per esempio 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 anni di seguito, divisi in mesi, e ogni mese, ogni 3 mesi facevo una scadenza, per esempio pubblicare questo libro in quell'anno, avere un bambino in quell'anno, anche se magari non avevo, cioè, ma neanche in contratto, chi, io sono sposata 2 volte perché mi sono sempre sposata subito, ma come scrivi giù le cose, oppure non so, fare questa cosa. E poi avevo e ce l'ho ancora, un altare in cui, pieno di cassettini, mettevo questi miei calendari e mi dimenticavo, e dopo un po' di anni andavo a vedere, tutto proprio esattamente come l'avevo progettato si verificava. E io questo lo chiamo fiducia, fiducia in Dio, la chiamo direttamente fiducia, fede in Dio, perché per me è, come si può dire, è molto più bello vivere progettando le cose e poi le affidi. E poi non è che non fai niente, non è che ti dimentichi veramente della tua meta, però è come se ti rilassassi perché sai che qualcuno ti aiuta a fare quelle cose che tu hai affidato nel cassetto. E lo faccio anche con le persone che mi irritano, per esempio, mi stanno, non lo so... antipatiche? No, magari mi offendono, mi fanno soffrire. Allora, invece di arrovellarmi in questa roba, l'ho insegnato ai miei bambini, quando mi dice, ah, questa persona, dai, vediamo... Vieni qua che la mettiamo nella carta stagnola che così torna tutto indietro. Allora mettiamo nella carta stagnola, scrivo queste sembra cose. Sembra un po' come essere una streghetta. Una streghetta, però c'è la Madonnina sul mio... Poi la mettevo nell'altare, nella cassettino e basta, questa persona era neutralizzata. Io non avevo più nessuna rabbia con questa persona perché ci pensava il Signore. Quanto sei credente? Ah, io molto, molto, veramente, moltissimo. Ma poi anche con i sogni, per esempio, ogni tanto i miei bambini venivano, mamma, devo mettere il mio sogno nel cassetto, andiamo a scriverlo. Scrivevano, mettevano nel cassetto. È bello, perché poi cresci con questa cosa, insegni la magia ai tuoi figli, quando erano ammalati gli mettevo la candelina in testa, cioè, credo molto, perché sono animista, però non ho a che fare, se mi si materializzasse uno spirito davanti, credo che diventerei pazza, avrei paura. Li sento, ma non li voglio vedere, e sento molto la presenza comunque degli angeli, nelle chiese, no, cioè così, vado a messa, quando riesco, quando non sono ad Abu Dhabi, cioè, bello. Hai raccontato anche di un tuo viaggio a Medjugorje? Diversi viaggi, perché la prima volta avevo 16 anni. Hai portato anche i figli? Ho portato i miei figli perché mia figlia era prematura e quindi sono tornata per ringraziare la Madonna, perché quando lei era nell'incubatrice mettevo sempre la candelina lì, cioè per assistere. È stato, non so se qualcuno ha avuto una figlia prematura, però veramente sono momenti molto difficili. E poi sono tornata una seconda volta durante il Covid, eravamo in barca, vedi, c'è sempre questo paradosso nella mia vita, che io vivo in un mondo molto, che sembra molto lussuoso, era uno yacht, cioè di 50 metri, e io fermo mio marito e dico, senti, qua siamo vicini alla Jugoslavia, passo tra 2 ore, c'è Medjugorje, lasciami andare a Medjugorje, vieni anche tu se vuoi, no, io sto in barca. Ho preso i miei figli, siamo andati, è proprio una bella cosa. E siamo come l'hanno vissuta loro questa gita? Ma guarda, c'era mio figlio, la prima volta che è venuto a Medjugorje con me, aveva il candora da arabo e poi vedeva sti preti con la stola, no? Allora si è comprato una sciarpa e girava con questa stola addosso e mio marito al telefono, ecco Medjugorje che è il più grande scam mondiale, perché non ci crede evidentemente a niente, gli dico, ma c'è una grande forza, gli dicevo io, è bellissimo. E poi Adam gira come se fosse un prete, un musulmano prete, che chiarezza di idee, diceva, no? Cioè era buffo, perché noi viviamo questa cosa con un marito che è super pragmatico. I miei figli crescono con una mamma che è completamente aerea e un marito che è completamente solido, e hanno la visione di due mondi, e io la trovo molto bello, perché comunque io mio marito lo amo, pur essendo così concreto, no? Cioè se io gli dico, guarda che bella la rosa, oppure guarda che bello, non so, siamo energia, cioè, capito? Ed è bello però, perché alla fine viva la diversità, insomma, non è che io ho niente contro questo, senza di lui, senza persone come lui, non sarebbero state fatte tante cose, saremmo tutti artisti, matematici, scienziati, che scoprono il mondo, scoprono le cose, scrivono come dei pazzi, però non concretizzano poi, no? Grandi palazzi, cose, cioè, ci vuole tutto. Tu dicevi... Ho vissuto un po' a Bolzano, un po' in Svizzera, vivi tuttora tra no, perché Abu mi viene Dhabi da ridere, e Dubai. Effetti, perché... Dove ti vedi tra 10 anni? No, ma perché anni, poi vedi, Io parlavo prima del trovare la centralità della propria persona, no? Come se fosse una cosa che... Però in effetti se tu pensi... E me lo sono anche segnato, vedi, si apre qua la pagina, trovare la propria centralità, esatto. Il centro di gravità permanente... Però, è preso spunto da Battiato? No, secondo me era completamente aereo anche Battiato. Però c'è anche questa cosa che, essendo una peregrina universale come me, no, che si sposta tra i mondi, ritrovare se stessa a volte, comincio a capire che non è una cosa così scontata. Cioè, se per esempio uno che vive magari sempre a Bolzano trova lontano Merano, cioè, io che vivo tra Abu Dhabi, la Svizzera, Milano, Roma, cioè continuo a cambiare, dovrei trovare... E invece, alla fine, no, metti tutto insieme, però forse ci è voluto un pochino, ecco. Però la tua centralità l'hai trovata. La tua centralità l'hai trovata. Sì, finalmente l'ho trovata. E spero che appunto, leggendo anche tanti giovani che magari si trovano... Perché il mondo di oggi, comunque, non è più come una volta che tu... cresci in un posto, in una via, rimani in quella via, trovi il lavoro in quella via, in quella città. I giovani devono uscire, sono tutti sparsi per il mondo, no? Perché il lavoro non appartiene più alla geografia locale. Noi siamo in una epoca che diventa sempre più digitalizzata, in cui i confini geografici vengono cancellati, in cui c'è un mondialismo culturale totale, anche se adesso con i BRICS è entrato il mondo bipolare, eccetera, ma siamo lo stesso ageografici, quindi siamo cittadini di una terra unica, di un pianeta, e presto diventeremo interplanetari, e se non scopriamo quest'altra dimensione, cioè, capisci? Tu l'affrontavi, no? L'epoca digitale vuole renderci esseri cerebrali, quindi impotenti di... No, ecco, vivere questa, la nostra libertà, la nostra centralità, sì, la nostra consapevolezza di quello che siamo. Sì, perché c'è anche un aspetto terrificante dell'epoca digitale che, questo non l'ho potuto approfondirlo troppo, però a un certo momento si parla anche di un robot all'interno del libro, quindi di una società distopica proiettata nel futuro in cui saremo proprio mescolati ai robot, i robot avranno i loro diritti di avvocato, così la gente si sposerà anche con delle macchine, cioè avranno la propria identità. È una maniera un po' veramente terrificante di vedere le cose, però noi ci stiamo a un passo dalla cosiddetta singularity, in cui ci sarà lo scatto in cui le macchine prenderanno il sopravvento. E già Elon Musk lo prevede e dice che questa cosa è pericolosa, ma io la prevedo, questa pericolosità, nella maniera in cui l'essere umano, perso com'è nell'intrattenimento digitale, perde la sua anima, perché è sempre come in un videogame. Cioè, mentre quando sei nella fisicità, sei magari perso nella fisicità delle cose, corri da una cosa a parte all'altra e ti perdi un pochino, ma là dentro è ancora peggio, perché ti perdi in un mondo in cui non senti neanche più il tuo corpo. E la prima porta verso la spiritualità è proprio il corpo, perché se noi siamo qua su questo mondo non è per negare il corpo, ma per viverlo in fondo e attraverso il corpo arrivare oltre, cioè attraverso la percezione della bellezza, perché la poesia, la meraviglia della vita e della percezione è una delle porte del paradiso, no? Cioè, quando uno è veramente felice di essere calato in questo corpo e si gode il corpo, ma non nella maniera disgraziata di sperperare il corpo, no? Ma come tempio sacro, di sacralità, di bellezza, arriva proprio a toccare la bellezza proprio della vita, che è sensibilità, che è grazia, uno stato di grazia. C'è una grande differenza. È un'ottava superiore, ecco, si può... come si può dire, non so se mi sono spiegata bene, no? Sì, penso. Si può raggiungere, ma tu dicevi anche una cosa particolare che poi rifai anche adesso, mi pare, avendo letto il libro. Tu, quando vuoi estraniarti o comunque vuoi tornare a contatto con un qualcosa di più grande, tu abbracci un albero. Ecco, non è che lo abbracci proprio sempre, cioè, fisicamente, però... ma anche metaforicamente. C'erano dei momenti in cui io mi sentivo molto stanca, molto esaurita, allora mettevo la mia schiena contro un albero, mi sedendomi alle radici di un albero, perché c'è molta forza nella natura. Adesso non lo faccio, perché vivo in una casa che è a contatto con degli alberi enormi di 10 metri di altezza, 12, bellissimi questi. Ho preso quella casa per quello, perché certo, a Abu Dhabi senza alberi non so come farò, però lì c'è il mare, quindi per me è proprio il contatto con la natura che è la porta della bellezza. Però può essere la natura, può essere anche il sorriso di un bambino, cioè chi sta in contatto con i ragazzi, i bambini. Perché parlo dei bambini? Perché i bambini hanno quella forza della natura che poi perdono quando già arrivano 7-8 anni, cominciano a perdere, bastonati dai genitori. Cioè, però hanno quella sacralità, quella magia delle cose, che veramente è quello stupore, no? Cioè, quello stupore meraviglioso, dice che bello. Ecco. Tu i tuoi figli come li hai cresciuti? Con che valori, con che messaggi? Con questi, anche se non hanno mai letto il mio libro, però sono eredi di questa cosa, perché a parte che mio figlio ha ereditato il mio misticismo diventando musulmano, perché lui si sente musulmano, però ha questa religiosità molto, molto forte, perché comunque cerca qualcosa. E poi, e comunque sono saggi, quindi io credo che questa sensibilità si senta. Però non parliamo sempre di me, perché poi mica parlo sempre di me. Ma no, non parli solo di te, ma parliamo della anche... Dina. Parliamo della Dina. Io mi ero segnata, perché Dina è una persona... Leggendo il libro ho sorriso e te l'ho anche detto al telefono: guarda, mi hai fatto fare un tuffo nel passato, perché c'è il racconto di questa signora Dina, no? Meglio gatte pazze che massaie infelici, che abitava nella zona dei campi di San Giacomo, sì, zona Gruzzo. E io mi ricordo, da piccola andavo con il babbo e la mamma e il fratello da questa signora Dina. Ma magari qualcuno conosce la Dina. E magari l'ha conosciuta in passato. E viveva racconti, con 50 gatti. Racconti, sì, di questa signora che viveva con un centinaio di gatti. Tu arrivavi e venivi proprio accolto e avvolto dalla presenza di questi gatti. Noi si andava dalla signora Dina a comprare le uova, perché aveva anche delle galline, e passavamo. Però non accettava di bere niente, perché lei viveva. Era un po' rischioso, insomma, con tutti questi gatti che giravano. Nel fornello, insomma, ridono. Ecco, c'è mia cugina e mia zia che loro conoscono. Però era una cugina, è una nostra cugina, no? Cioè, infatti, nessuno di noi beveva niente, però. Però era affascinante, perché con questo... Era una signora. A me sembrava una fata che usciva dal Settecento, uno spettro, qualcuno con questi capelli, con questi guanti. Una volta sono andata nella sua camera, questi pizzi. Era veramente affascinante. E secondo me, siccome mia mamma, quando mi vedeva, diceva: diventerai come la Dina, ma in una maniera spaventata, perché mi vedeva estratta. Io però, sapendo chi era la Dina, dicevo, vabbè. Non mi sembra una strega, mi sembra più una fata. Però alla fine non sono diventata come viveva la Dina. Viveva nel suo mondo. Sono diventata, io, ecco, pur nel mio mondo, io molto concreto. E tu vivevi nel tuo. Sì, però alla fine sono concretissima, perché i miei figli gli faccio da mangiare, vado al supermercato, cioè faccio un sacco di cose. Raccontiamole queste cose, sembra, se no altrimenti vivi in un mondo... Ma sì, però vado al supermercato nel mio mondo. Cioè, io quando vado al supermercato vengo incantata dalla bellezza, come Andy Warhol, che faceva il barattolo delle cose Campbell, dalla bellezza delle file del supermercato piene di detersivi. Cioè, alla fine a me piace andare al supermercato a vedere anche il punto estetico del supermercato. Cioè, io mi perdo un po' in queste cose, quindi ho una maniera poetica pure di andare al supermercato. Però lo stesso, alla fine ho fatto un sacco di cose, un sacco di libri, un sacco di... I miei bambini comunque li portavo a scuola, adesso faccio sempre da mangiare, vado di qua di là. Cioè, sembro una persona molto manageriale anche, no? Cioè, se anche mi si rompe il bagno, chiamo l'idraulico, gli faccio mettere a posto, discuto sul prezzo, persino questo. Cioè, non è che sono una astratta persa. Ecco. Però sei anche concreta. Sono molto concreta, però vivo tutta questa cosa con la poesia. E quindi la vivo con gusto. Ecco. Si parla di quotidianità, tu ci hai già raccontato come vivi la quotidianità, no? Sì, sì, ma io perché mi piace, non so voi quando leggete i libri. Cos'è sottolineato? Leggi. Allora, la vita è fatta di quotidianità, per fortuna. Dopo sogni come questi, resti stordita, continui a pensare a Eva e sai che la cercherai nei tuoi sogni la notte dopo. Ah, ma questo è interessante, sì. Che sai, è un altro... Questo è il robot di cui sì, parlavo prima. Che si parlava prima. No, ma la cosa robot buffa è che io mi sogno veramente queste cose, perché credo che nei sogni uno esca anche dal proprio corpo, vada a percepire delle cose, solo che io mi faccio sempre un po' un passetto indietro nei miei sogni, perché quando diventano troppo concreti ho paura. Però tu sei capace di entrare nei sogni, di modificarli un po' a tuo piacimento. Sì, sono capace di guidare i miei sogni, è una cosa strana, perché ho letto molto Castaneda, non so se avete letto Carlo Castaneda. A me è capitato ogni tanto di riuscirci. Cosa succedeva? Raccontami. Li andavo a pilotare, dove mi piaceva di più far finire un sogno. Cioè, li facevo sapendo finire di sognare, bene, però. Sapendo di sognare. Sì, ero cosciente. Cioè, ecco, mi sentivo un po' sollevata. È questa cosa molto bella. Però non so se... No, ma è vero, essere... Un'allucinazione. Che, no, ma non è vero, perché è proprio raggiungere la coscienza nel sogno. E quando sai di sognare nel sogno, il sogno diventa veramente molto concreto anche. Cioè, quei sogni proprio che diventano quasi fisici, no? Però alla fine poi non sai se incontri degli esseri positivi, negativi. Io ho un po' di paura a volte, perché è talmente fisica la sensazione di essere proprio svegli nel sogno, che io, se ho un po' di paura, comincio a recitare dei Padre Nostri e mi sveglio. Perché tu parli anche di angeli e demoni. Sì, perché a volte magari ci sono anche degli esseri, quindi, che ti inseguono e tu scappi via. E sai benissimo che non sono solamente sogni. Cioè, a volte... possono essere le nostre angosce quotidiane che prendono forma, ma a volte sai come gli sciamani che usano il sogno per navigare in un altro mondo. Carlos Castaneda, che ha letto i libri suoi, è maestro in questo, no? Dell'arte del sognare, di entrare nel sogno e usare il sogno come porta di un altro mondo in cui uno esce proprio dal proprio corpo. Ma io non è che faccio tanti voli fuori dal corpo, perché è un ambito, dico, se siamo qua in terra è meglio, perché vogliamo vivere sulla terra, no? Però è molto affascinante questo spazio. Dai, leggi altre frasi che sono degne altre di... Altre frasi, allora, di vediamo, spunti. Perché ce ne sono diverse. Allora, qua siamo già verso la fine, allora torniamo verso l'inizio, non proprio l'inizio, però... Vedi, Rudolf Steiner ha teorizzato che persone come me, vivendo un po' dentro, un po' fuori dal corpo, a cavallo di due mondi, entrano negli altri, sono come attratte nei loro corpi. Cioè, tu cerchi anche di entrare nelle altre persone. Io percepisco quello che gli altri... Sei molto sensibile. Sì, per esempio, una persona ti incontra e ti dice qualche cosa, tu sai se è vero o non è vero, perché al di là delle parole tu percepisci le emozioni di quella persona. Quindi, se una persona ha un minimo risentimento verso di te e ti dice delle belle parole, tu percepisci il risentimento, non percepisci. Sei come un cane segugio. Cioè, alla fine, essere persone come me non è veramente giusto dire astratto, è essere molto sensitive. Sì, sì. Istintuali, quindi se usi il tuo istinto sei come un animale alla fine, no? Quindi tu sai benissimo quello che dirà quella persona prima che lo dica, e quindi a volte diventi rude, diventi impaziente, ti ritengono anche maleducata perché non puoi essere finta. Lo eri di più in passato? Oh sì, quante volte mi hanno detto che sono maleducata, perché alla fine non riuscivo a concepire il manierismo della nostra società che ti porta a mentire. Cioè, mi dice, ma perché? Perché? Cosa serve questa persona che vorrebbe dire una cosa e ne dice un'altra? E non lo capivi, no? Come non capivi una persona che era convintissima di dirti una cosa, ma non era vera, perché nemmeno lei era convinta con la testa, ma il suo corpo diceva un'altra cosa. Ecco, io credo che questa educazione ad ascoltare il corpo, se venisse insegnata alle donne, si difenderebbero da tante violenze che vengono fatte sulle donne, da tante donne che credono a delle promesse, non so, da parte di uomini, di sarò buono con te, eccetera, ma poi invece sono dei terribili persone, no? Sviluppare l'istinto servirebbe a tutti. Invece noi siamo una società mentale e ci insegnano a non ascoltare l'istinto. Quindi le persone che sono istintuali come me vengono confuse subito, dicono: ma porco cane, perché mi dicono di ascoltare le parole se io sento con il corpo che non è così? E nessuno te lo insegna e credi di essere confuso. È una ma alla fine capisci di più degli che altri. Che ci porta però anche all'apparire, no? Devi apparire per essere. Appunto, però le quindi persone non puoi essere persone, sempre come vorresti essere. Invece le persone aeree sono molto spesso burbere. Conoscerete dei burberi, no? Probabilmente sono degli aerei. Cioè dei burberi che alla fine sono persone più vere delle altre, che ti dicono sempre quello che pensano, ma di cui ti puoi fidare ciecamente. E sono persone che non sono di tante parole. Avevamo mica lo zio così, anche noi. Quindi probabilmente era aereo. Riguardo al tempo, tu dici, serve tempo, ognuno ha il suo orologio interiore, e quindi arriviamo al punto. Ognuno ha il suo tempo, il suo percorso per capire realmente in che direzione andare, no? Quindi, in questo caso, avendo ognuno il suo tempo, vedi, per anni le donne mi hanno ostacolato pensando che rubassi loro gli uomini. Sì, questo è un altro aspetto. Nella mia spontaneità cercavo affetto. Ecco, tu racconti d'aver cercato sì, perché, affetto. Allora, ma Valeria, tu che prima dicevi, dopo ne parleremo dello pseudonimo. Eh sì, una volta io ero Melanie Moore, ero questa figura completamente sexy che la televisione aveva voluto da me, perché io ero alla disperata ricerca di pubblicare i miei libri, e ero troppo giovane, avevo 20 anni, nessuno mi pubblicava un libro, e praticamente gli editori mi dicevano: ma mettici qualche momento sexy dentro, e poi era subito un attimo andare da Costanzo, ti fanno le foto, vendi il libro, era il gioco degli editori, no? E quindi io mettevo questi momenti sexy nei miei libri che non c'entravano un tubo con i libri. Cioè, tu leggevi un libro normale, pam, c'è un momento di sexy. Ma cosa c'entrava? Niente. Era per vendere. Lo mettevano nelle edicole, lo mettevano dappertutto. Io andavo da Costanza, andavo in giro. Ero proprio una celebrità al tempo. Cioè, mi si riconosceva per strada. Il collasso è venuto a mia mamma quando mi ha visto sull'Espresso, mezza nuda. Cioè, veramente, mi hanno telefonato. Quindi, alla fine, io avevo questa cosa che ho sempre affrontato tutto con un candore. Io dicevo, non ma ti penti di quello che hai fatto? Ma perché dovrei essere moralista per pentirmi? Ma io non sono moralista, cioè io sono genuina, sono onesta, e non vedevo niente di male nell'esporre un corpo quando non facevo niente con nessuno. Avevo un marito che mi era sposata dopo tre mesi che lo conoscevo. A 19 anni mi sono sposata la prima volta, il primo uomo che ho conosciuto l'ho sposato, quindi senza neanche mestruazioni, perché io mi sono sviluppata a 21 anni, cioè ragazzi, quindi manco sapevo che cosa fosse l'attrazione sessuale perché non avevo gli ormoni, quindi alla fine ero un angelo e si è messa a fare le foto come non c'entrava niente, no? Quindi però vedi, di solito c'è della malizia nelle donne e io invece no, non ce l'ho mai avuta. A me sembrava bello essere così pastorale, così, no? Per quello che, cioè, Valeria che ride, però lei sa che è vero, c'è questa verità, no? Non ho trovato mai niente di subdolo, sporco, brutto nell'esibire un corpo, nemmeno nella sessualità, solo bellezza, no? Quindi, cioè, come si addice a un essere della natura che non ha sensi della morale per la morale infine a se stessa? Cioè, se una persona è cattiva, lo senti cattivo perché lo percepisci come invasore, ma non è che lo definisci con l'etichetta lui è cattivo o lei è cattiva, io sono buona perché moralmente mi devo comportare bene. No, tu sei buona perché sei felice di essere al mondo e godere della bellezza, e sai che vivere arrabbiata ti fa male, fa male agli altri, ma ti invecchia, per esempio ti vengono le rughe, cioè non lo so, ma non è che è un concetto, è come correre, no? È come sei un animale, ecco, che però vivi calato nella bellezza. In base a quella, che morale hai se non quella naturale? Non c'era mica dei filosofi che ci dicevano la morale della società, la morale della natura. Poi tu dici anche, bisogna cercare la luce, no? Ci si ci estingueremo in un battibaleno se non cerchiamo la luce. Che luce dovremmo trovare? No, perché io scrivo delle cose che mi detta poi... il mio spirito e poi non mi ricordo quello che scrivo. Ci estingueremo in un battibaleno se non cerchiamo la luce. Ogni volta che incolpiamo la vita delle nostre disgrazie o gli altri, annotandoli sulla lista nera delle persone che ne hanno fatto del male, non vediamo che il demone è ancora lì dentro di noi che sghignazza: bene bene, non mi vedi, posso continuare a torturarti persona dopo persona, incidente dopo incidente, sei nervoso, guidi male, rompi la macchina, nessun incidente casuale, il demone è contento di restare tuo padrone. Ecco, sì, è quello che dicevo prima. Ogni pensiero costante è un demone che abita dentro di noi, succhiandoci il sangue della vita. È questo che dico, l'assenza di morale. Quando vivi nel mondo degli sciamani, affrontando la vita dall'aldilà, un po' di là, a volte di qua, capisci che i tuoi pensieri sono veri. E quindi se tu pensi qualcosa di brutto, diventa un demone, no? Anche di te stesso, dentro di te c'è qualcosa che ti corrode e questo è proprio un demone, una rabbia che hai dentro, un risentimento per una persona, ti corrode a poco e cominci ad ammalarti, cominci ad avere un cancro, cominci ad avere un incidente che non... Scrivo, ogni incidente avviene per un perché, perché in quel momento sei distratto, sei, magari qualcuno ti viene addosso, ma perché ti viene addosso? Cioè, secondo me, sono proprio convinta di questo, cioè noi dobbiamo... molto spesso incolpiamo gli altri per quello che noi abbiamo dentro di noi, no? E quindi quando tu senti, non so, sei arrabbiato con una persona, è perché hai dentro il demone della rabbia e quella persona ti tira fuori proprio quella roba là. Altrimenti non saresti arrabbiato, altrimenti diresti, è poverino. Lui. E invece se ti arrabbi, ah, quello mi ha fatto questo, bla bla bla bla, vuol dire che dentro il demone della rabbia è che è uscito. E allora paradossalmente devi andare da lì e dire: senti, grazie di avermi fatto incazzare, cioè grazie, veramente grazie, ma come eh sì, grazie, perché almeno devi rimanere anche senza parole, perché rispondendo così non se lo aspetta, sì, grazie, neppure. Perché ho scoperto di avere il demone della rabbia dentro. Se poi cancelli la tua rabbia dentro, non riesci proprio ad arrabbiarti, cioè non ci riesci proprio, perché dentro sei sereno. L'altro si arrabbia, si contorce come un pazzo davanti a te e tu sei lì che quasi ridi e lo fai arrabbiare quasi più, ma non ridi per schernirlo, questo è il punto. Hai questa roba, capito? Cioè, bisogna pensare positivo. Tu no, porti, non è pensiero. È il pensiero, ma anche il sentire. È sentire, perché vedi, il pensiero frega, perché la gente molto spesso, noi... E siamo stati educati a pensare, ma il pensiero ti frega, perché uno dice devo stare buono, devo essere buono, allora è meglio che uno si arrabbi come un pazzo, non dico di andare in giro con il Kalashnikov e uccidere tutti, però è meglio che uno prenda a pugni il cuscino piuttosto che raccontarsi balle sulla propria rabbia, perché la rabbia ti fa ammalare, è un demone. Allora cioè bisogna avere l'onestà per tirare fuori tutto quello che uno ti fa tirare fuori e anche di manifestare fuori senza più pensare sempre troppo, no? Convincendosi che questo è giusto. La mente mente sempre, ti convince. Io sono una brava persona, sono una brava persona. E poi cominci a mentire te stesso, perché cioè, non saremmo tutti qua su questa terra se fossimo delle brave persone. Nessuno è una brava persona, siamo tutti dei delinquenti su questa terra. Però c'è almeno l'onestà di ammetterlo e cercare invece di godersi il più possibile la bellezza per riscattare una certa condizione di inferno a cui siamo destinati se stiamo qua, insomma. Parlando e quasi concludendo, io credo... infatti, siamo quanto quasi... tempo... Ma poi se ci sono anche degli input dal pubblico, dalle Dai, persone presenti, volentieri. Noi ci stiamo esaurendo. E tu dicevi, io voglio lasciare comunque un messaggio soprattutto ai giovani, perché tu vuoi lanciare e comunque far arrivare un messaggio soprattutto a loro? Ma perché li vedo così confusi? Guarda, io sono veramente allibita, vedo tante persone che vogliono cambiare sesso, che tutti questi ragazzi che si truccano in Instagram, che esagerano con questa cosa, cioè ragazzi calmatevi, io ho avuto le mie prime mestruazioni. Siamo arrivati a 21 all'eccesso anni. Forse? Sì, però io sono stata come questi qua che si prendono gli ormoni per ritardare la pubertà e non mi sono persa niente, perché c'è una corsa Ah, per fortuna adesso Donald Trump, io lo difendo perché dice prima volevo che dice, chiedertelo, non volevo arrivare. No, ma è vero, perché lui ha detto prima dei 19 anni non fate niente. Cioè, se una come me si è sviluppata a 21 anni, no? E prima ha studiato tanto e tutto, perché tanto non avevo nessuno, come si può dire, io correvo, avevo una amenorrea permanente, cioè non avevo proprio niente, ero come un undicenne. Quando sono andata da ginecologo, avevo 19 anni, ginecologo, e lo scrivo, chiede a mia mamma perché ha aspettato così tanto. Mia mamma, che era una candida anima, come me, secondo me, buona essenzialmente, sul campata per aria, e ho detto non lo so, non lo so, giustamente non lo sapeva. Cioè, io a 19 anni ero come un undicenne, 11 anni avevo, fisicamente avevo 11 anni, e quindi mi sono sviluppata dopo con una terpesta ormonale, forse anche per quello che sono scappata con il primo praticamente forse ragazzo. Forse per quello che sei scappata a 18 anni a Gerusalemme, ti sei sposata. A 19 anni, sì, perché comunque avevo, mi hanno dato gli ormoni, mi hanno dato un sacco di progesterone per farmi venire le mestruazioni. Io sono aumentata di 13 kg in meno di un anno, 13 kg, ero un osso, e all'improvviso mi trovo in un corpo di donna. Cioè, è logico che uno scrive poi alla fine, quando ha 75 anni, il sussurro di un Dio, perché dice ma che confondente la mia vita, no? E quindi sono stata sballottata di qua e di là da questi eventi, e quindi ai giovani direi, se comunque io poi ho avuto una vita meravigliosa, ho avuto la capacità di amare e di innamorarmi follemente, di essere attratta dalle persone, dai maschi, dagli uomini, di essere felice, di fare due figli, cioè di avere un marito da 20 anni, un secondo marito da 20 anni, cioè dico, cos'è questa fretta di 13 anni che uno deve sapere esattamente di essere un maschio o una femmina, deve truccarsi o non truccarsi e decidere tutto il proprio futuro a 13 anni? Cioè, a 13 anni, cioè questa è follia. Si bruciano le tappe, si no? bruciano è le tappe, società. Tutto in nome del consumismo, che vuole avere più persone da vendere i propri cosmetici, invece di aspettare 19 anni, venderli a 12, venderli a 11, cosmetici, vestirle come se fossero delle fashion, in una sfilata fashion, queste ragazzine, cioè è veramente consumismo all'estremo. Tua figlia come vive l'adolescenza? Da bambina, non si vuole toccare. Te? Penso di sì, cioè mia figlia, mentre le figlie, le altre ragazze, 14enni, sono già con un sacco di trucco, pensano molto ai ragazzi, dice mamma io ho tempo, e ancora pensa nei suoi sogni, ai suoi primi innamoramenti, mi racconta, mi piace quello, mi piace quell'altro, in questo candore meraviglioso che hanno gli adolescenti, sognando, no? Il primo bacio, che di solito è terribile rispetto a quello che uno sogna, per fortuna sogna, perché il sogno poi ti permette di andare avanti, no? Se consumassi tutto subito è più dura, invece ha questa lievità, no? Tutti e due, secondo me, forse anch'io sono un po', no? Insegnato la magia del mondo, non lo so, mi sembra che ci sia tanto di quel tempo per fare tutto nella vita, anzi, cioè, non lo so. Come ti vedi e dove ti vedi tra un po' di anni? Giusto. Quando i miei figli saranno più grandi e quindi avrò sempre meno da pensare, a parte che i figli non crescono mai, alla fine magari si sposano, hanno dei figli, diventi nonna, e se non diventi nonna comunque li vedi crescere. Io mi vedo comunque a scrivere ancora tanto, magari in una maniera più digitalizzata, parlando sempre, facendo conferenze. E mi vedo essenzialmente uguale, sempre le stesse cose, cioè nel senso, lo stesso meccanismo di andare avanti, girando il mondo, perché c'è sempre questo sfondo di missione, no? Per cui così è bello. Ragazzi, avete qualche domanda? Vivere in leggerezza. Sai che è vero però, che non è superficialità, no? Però uno dice, ti commuovi tanto, poi vuoi sempre ridere anche tanto, stare bene con gli altri, se incontri un gruppo di persone, non te la prendi più di tanto per le tue sofferenze. Infatti sei accusato di essere superficiale, cioè non te la prendi paradossalmente per le sofferenze tue e degli altri, nel senso che la vita è talmente breve, dici, no? paradossalmente muore qualcuno, rimani male, piangi, ma lo stesso sai che comunque appartiene a una, tanto si sbacchetta tutti prima o poi, quindi è troppo breve per stare lì anche a vittimizzarsi, a dire ah, soffro di questo, soffro di quest'altro, soffro perché sono andato questo. Siamo, è un soffio, è un soffio. Cioè, che non bisogna? Riesco ad attaccarmi alle cose, nemmeno al mio corpo mi attacco, quindi figuriamoci. Troppo molto veloce tutto. Però è bello, nel senso che almeno... Vuol dire che comunque hai vissuto, anche se in teoria dici non mi attacco alle cose, sicuramente tu le hai vissute e le hai vissute al massimo e le vivi nel quotidiano. Cioè, dai questa idea di essere tra due mondi, ma le vivi, le percepisci, anche con le persone che ti stanno intorno. Io vedo adesso sul cellulare questa Madonnina che ti accompagna. Ah sì, è vero, non me la ricordavo. L'hai raccontato anche nel tuo libro, tu sei appunto... Se non ci credessi ti fai accompagnare così, da queste... Sì, se non ci credessi così forse non sarei così felice, è vero? È vero, perché comunque paradossalmente ti capita una cosa e tu passi attraverso il dolore per quella cosa, no? E magari piangi tanto fino a che risolvi quella cosa, però ti ci butti a pesce e quindi la vivi fino in fondo, però sai che, capisci, la vivi profondamente, ma fai delle cose, non è che ti crogioli dentro là, cominci a usare il dolore, la sofferenza... È come usare la paura che ti viene. L'altra volta mia figlia mi diceva, ma ho paura della matematica, sono qua che non riesco a fare niente perché domani ho il test di matematica, non dormirò. Mi ha detto, la paura non ti passa, devi solo trasformarla, non passa mai niente, non passa la paura, non passa il terrore, non passa il dolore. Devi trasformare la paura in eccitazione. E invece di aver paura, dire, cavolo, adesso mi butto a studiare con un entusiasmo pazzesco. Ecco come trasformare le cose. Il dolore per una persona persa non ti passa, devi trasformarlo. Probabilmente diventerai sensibile a delle cose, ti metti a fare delle cose anche per gli altri, a buttarti in un progetto con più entusiasmo. Devi trasformarlo. Non passano queste cose, di trasformarle. Bisogna avere il coraggio e la forza di trasformarsi. Trasformarle. Cara Melanie, Francesca... Siamo arrivati quasi al termine. Non spero di non avervi annoiato, però vedo una signora sorridente là in fondo. Come? Vediamo se c'è qualche domanda, qualche curiosità, ne approfittiamo ancora. Ma sai che sì? Ma guarda che c'erano momenti all'inizio, quando avevo sposato questo primo marito, no? Che noi non sapevamo cosa mangiare il giorno dopo, diciamolo. Io per anni andavo avanti a insalata, neanche insalata, io andavo a tonno in scatola. Anche perché eri allergica a tutto? Ero allergica a tutto, ma poi io scrivevo tantissimo. Quando vivevo in quella casa a 16 gradi con il mio primo marito, che era scappata di casa, ma eravamo veramente degli scappati di casa, senza soldi, cioè... Avevamo una macchina scassatissima e questa casa a 16 gradi che a dipingere mi si congelavano le mani e vivevo molto in comunione anche con la natura, avevamo questi alberi fuori, c'erano questi gufi, queste civette fuori e io mangiavo solo tonno perché non avevamo da mangiare e vivevo di pittura e di sogni, no? Così, però vivevo paradossalmente non mi mancava nulla perché io facevo quello che amavo moltissimo, che era dipingere, cioè e scrivere. E paradossalmente anche adesso faccio quello che, cioè, allora non lavavo i piatti che si accumulavano sul lavandino come delle torri di newyorkesi alte 20 metri. E adesso non lavo i piatti perché ho la domestica, ma non cambia niente perché ancora non lavo i piatti e dipingo e scrivo. Anche se però faccio volentieri il cibo per mia figlia per amore, anche se faccio delle cose fisiche per amore tutto, però non mi è mai mancato nulla, né allora mai ho detto vado a lavorare a fare la panettiera perché non abbiamo soldi, no, dico prima o poi arriveranno i soldi, intanto dipingo, Cioè, no, così. Secondo me è importante insegnare questo ai figli. Cioè, vai dietro al tuo sogno, non andare dietro ai soldi, non fare qualcosa per i soldi, farlo perché ami. I soldi possono arrivare. Se arrivano, i soldi prima, arrivano meglio. Sempre. No, i soldi arrivano sempre, perché io dico anche nel mio libro che non è se uno è attaccato ai soldi, non arrivano, non arriva. I soldi. Se uno non pensa ai soldi ed è distaccato dai soldi, arrivano i soldi. È proprio il contrario del concetto che di solito le persone hanno della vita. Perché? Perché uno, quando non pensa ai soldi, si butta a pesci con amore in quello che fa, riuscendo a fare qualcosa di bello, che poi produce automaticamente un risultato. Invece se uno lo fa come uno schiavo, lo fa senza entusiasmo, come va? Beh, si tira avanti. E io rimango ghiacciata, vabbè. Contento tu. Beh, peccato, però no. E invece bisogna vivere in maniera diversa. Furiosa, in maniera furiosa, secondo me. Appassionata. Vivere. Sì, secondo me è più bello. Poi magari c'è persone invece che vogliono riposarsi nella vita, ma anche quello però, se uno si riposa felicemente, ha ragione. Ti riposi con calma. Il mondo è bello perché vari, esatto. Dicevano. Cioè, non è da condannare una persona che non si butta a pesce con una passione. Magari una persona è calma, che vuole vivere una vita calma, benedetta quella persona. Cioè, bellissimo. L'importante è che non sia frustrata in quella situazione. Non gli manca niente. È ricco in quella situazione, no? Cioè, bellissimo. Cioè, io penso, vero? Se vuole vivere in questa maniera... E le sta bene così? No, ma perché ci sono varie gradazioni all'eccitazione. Allora, una persona, per esempio, ci sono delle persone che ho incontrato che cercavano gli sport estremi per vivere con eccitazione. Allora, ci sono tante gradazioni, oppure ci sono quelle persone che cercano continuamente delle cose estreme, ma tutti. E allora, a questo, io sembro calmissima a loro. Allora, cosa vuol dire essere calma? Vedi che non c'è. L'importante è sempre come si vive, no? Ci sarebbero tante altre cose, ma ci sono i libri, Il sussurro di un Dio, manuale di sopravvivenza per generazioni aeree. Grazie. Ecco, c'è il microfono laggiù, qualcuno. A Melanie. Qualcuno parlerà. La signora che capisce. Sarebbe interessante naturalmente che i giovani possano, e che possano avere la possibilità poi di poter vivere i loro sogni. No, ma intanto averli. Forse più intanto avere il sogno, ecco. Perché viverlo intanto il sogno averli. E poi. Ma io mi sono fatta mezza Europa in autostop, dormivo nelle stazioni ferroviarie, dormivo sulle spiagge. Io vivevo felice così. Quando sono tornata a casa dopo tre mesi che non vedevo i miei genitori, non mi ero mai lavata i capelli per tre mesi. Mai. Erano rasta, messo lì, e mia mamma disperata, cioè mia zia che ride, perché loro lo sanno, anche la condanna che viveva su di me, come se fosse stato un demonio, no? Eppure io avevo un sogno, era il sogno di vedere il mondo, anche da pezzenti, andare a vedere l'Acropoli, a entrare nel Partenone, cioè cose che oggi tutti fanno i giovani, ma per me una volta... andare a Parigi, fare le cose. Quindi secondo me i giovani, se hanno un sogno, è importante più che avere i mezzi, perché i mezzi poi uno li trova sul suo percorso, basta volerlo. La densità, no? Del sogno, veramente, io insegnerei, infatti secondo allora me... Allora segniamo, appunto, in quel foglio bisogna segnarsi i vari sogni, i vari progetti. È vero. Torniamo qui tra un paio d'anni e vediamo quanti siamo riusciti segnate a realizzare. Segnate i vostri nipoti e figli, nipoti secondo me, i sogni, che sono la cosa più bella che si possa insegnare a qualcuno. Magari un sogno, ho il sogno di diventare ricchissimo, e va bene, almeno è un sogno, no? Piuttosto magari che... diventa benestante, non ricchissimo. Ma magari benestante. Anche quello. Ho il sogno di diventare uno scienziato, ho il sogno di andare su Marte, ho il sogno di... Cioè, qualsiasi sogno è bellissimo. Anzi, magari dovrei... Puliamo i sogni. Fabbrica di sogni, bisognerebbe. La fabbrica di sogni. Ecco. E allora grazie a Melanie, Francesca, per questo tuo... No, grazie a voi che almeno siete venuti. Io pensavo che non venisse nessuno, infatti... sono... Vedi, non eri fiduciosa, invece no, bisogna perché, essere fiduciosi, ascolta, nella ma vita. Ma non è questo, è che il mio positivi. Pubblico è tutto dentro in un mondo digitale, effettivamente, sparpagliato per il mondo, quindi tutte le mie relazioni con questo pubblico avvengono... Cioè, è pazzesco, però. Hai scritto il 19° libro, il 20° è già in cantiere? È già in cantiere. Ci dai un'anticipazione? È sempre questa roba distopica. Io vado avanti sul filone robotico, distopico, della singularity, perché poi veramente siamo a questa grande svolta. Cioè, adesso c'è Donald Trump che ha messo miliardi nello sviluppo tra Microsoft e tutto ARM e tutte quante le cose che producono microchip, eccetera, perché vuole dare un impulso pazzesco allo sviluppo digitale. C'è la Cina che sono tutti concorrenti là, e io credo che in pochi anni, a parte che l'umanità sarà proprio sostituita dai robot, ma al più presto, infatti bisognerà trovare un nuovo motivo all'essere umano per vivere, perché se tutto quanto viene fatto dai robot, gli operai, gli autisti, le macchine, i camionisti, tutto... Speriamo di no, speriamo non succeda, speriamo non no, no, sia ma quello... Ma no, ma succederà, almeno nella parte di mondo occidentale... Tra un po' di decenni, dai. Cara Melanie, grazie. Molto prima di quel che pensiamo. Per questa tua presenza bolzanina, per questo tuo sussurro di un Dio, manuale di sopravvivenza per generazioni aeree. Speriamo trovino la loro strada. Io ho portato lo solito champagne, ragazzi. Ah, e quindi si brinda. Grazie a voi per essere stati con noi in questo incontro al Trevi Lab. E grazie per l'attenzione.